non mi piacciono a me l'animale, già che sono allergico, quando mi musica già c'è un papataccio mio, oh, non mi passo più nei miei pugni. No, comunque gli animali, tu hai, perché adesso non lo sapevo, ma i cani, no, io cani non ne ho qui. I cani purtroppo, se hai questo problema qua, qualche zecca c'è, senz'altro, perché li procurano loro, capisci? È un fatto naturale. E per distruggerli purtroppo non è come metterci di serpenti o medicine dove ci sono i cani, perché poi è pericoloso, la potresti avvelenare. Quindi che cosa fai? Devi stare restrittivo a non metterci senti farmaci per no danneggi i cani. E quello è il problema. Comunque se hai procurato tutti questi accorgimenti, evidentemente sei tranquillo, via. No, no, proprio barissi, qua a me mi piace la campagna, però sicuramente sono allergico, se mi pugni il papataccio, come se l'altro forse sono andato all'ospedale, perché mi gonfia tutto, la picca, oh, c'è la voce, il pezzo tutti quanti, non me la putti nulla, però vado tranquillo, la picca. Ma cosa ricupera me? Tu lo fai una bocca nella zizzola buone. Perché poi ci ho comprato anche gli apparecchi a tratti sotto la veranda, no? Elettrico, quelle luci. E ho le aperte in tenisi. Sì, quelli sono efficaci. Però molte volte se hai animali comunque questi insetti tendono ad esserci, cioè anche i papataci. Ad esempio i papataci come li uccidi? Farmaci non ce ne sono, i papataci purtroppo sono nell'aria e non sono formiche che gli dai una con la pompa il veleno e muoiono di riguardo. No, purtroppo i papataci sono nell'aria e quelli che dice uccidere uccide e gli altri, e quindi c'è sempre qualcuno. Se hai questa allergia che quando si punge un papataccio si fa quel lavoro lì, è pericoloso, eh? Lo so, ma i papataccio rimangono sempre dove c'è l'umidità, infatti la mattina presto, quando ci avevo piantato fragole, finucchi, questo periodo, non c'entravo io, capito, i fiori di zucca, però romanzano io non entravo, le romanzane nella sera all'imbrunire, perché mi mangiava, le entra solo durante la giornata che c'è caldo, durante la giornata non mi bugnini, ma se entro la mattina presto, la sera che c'è già l'imbrunire, l'umidità, mi mangiano vivo. Anche picchi, ma pesce, ma da un disco, a me moglie gli si aperta le cicine osse, andi mi mangiano. Infatti a lei non le fa niente, a me perché c'è il sangue dolce, l'ha pizzo. Quindi ti scelgono a secondo del gruppo sanguigno. No, comunque ti volevo dire che i papataci vengono procurati dove ci sono animali. Io ad esempio qua animali non ne ho, papataci non ne ho, faccio rumori, roba così, qualche sentino, ma pochissimo, capito? Perché anch'io ho fatto la registrazione intorno alla casa con un prodotto che mi hanno dato dal comune, di questo genere non ne ho. Purtroppo se hai gli animali ti procura i papataci, sì, è vero che ha messo questi farmaci, però maledizione, non ci riuscirei mai a debellarli definitivamente. Sì, come ti guardo che taglio è, ma mi vedi di sì, a disinfetta, mi ci sono anche 3-4 giorni, mi pongo un cappello, ripicciti, la duccia, le guanti, sono potuto la ripupa in medicina. Per me cognata si ci fuggi, si nata la zuzzara, anche un pezzo tutto, che faceva comunque bisogna stare molto attenti quando hanno ci sono questi insetti pericolosissimi che in qualche modo se mi dici che quando ti pongono vai in ospedale è pericoloso, lo so, purtroppo a me sangue rosso mi piace la campagna, però devo fare il travaglio e ogni anno lo bozzo. E cosa devo fare? D'altronde, è così. E ti sto dicendo anche a te che la vostra casetti che ha prodotto e come sa così se mi desidera, non è compito, solo per una bocca. E poi io mi porto a pressare che con lo spruzzo che vendono in farmacia, c'ho anche quello, io mi metto quello, poi in camera mia, nella camera, no, da letto, c'ho quegli affari elettrici, le piastrine sulle finestre, c'ho quelli che fanno il fumo che vado per il campeggio, ma quasi manco una bocca a due. Sei organizzatissimo, via. Mi pare che era uno sotto, e avanti. Avanti chi chiamava? Ehi, Vittu, vabbè, adesso ti lascio, che devo parlare lì, se ci sentiamo oggi pomeriggio, se non esco, va. Poi la carica a te, salutoni, a QRA, familiare, ce la presentiamo, Vittu, ciao. Ok, ci avrò sentito, ma ce la presentiamo, la buona carica e buon tutto, e salutoni anche a te, tutto ricambiato a te. Ciao, ciao. Ciao, salutone agli ascoltoni, ciao! Anche sono il Moro. Ieri sera a che ora? messo il muro. Come mi ascolti a casa? Guarda un po' la differenza da questo a questo. Ti piace di più? È positivo, ora. Positivo, dai. E allora, com'è andata? Com'è andata? Salve, va. E Ai ai, va bene, dai. E io non penso bene a noi, e si fa che fuccio la Sabina che l'ha fatto tutto Biro. Non si chiama Sabina mi. Non si chiama mi, Sabina. Chi non tende non rischia a me, chi non rischia non lo pisca da me. Oh, uso di abito, da me, uso di abito, ma se anche io se io con la scherita ya. Ce l'ho in mano, dai. Vabbè, uso di abito. C'è da travagliare, c'è per noi tocca, ma non va nulla in vaga. Sicuro la testa della visita, si compara, si può vedere, questo è a per uno, mi muore. Tutto le amo, senta no. Però se mi sei pendente che si pende, no. Ma tu penso, no. E te la riesce. E lui corre lì. No, in che canale esce? Ah, tra adesso primo non lo vedo. Non lo vedo, che sta per l'antenna, che per la velocità è sempre con la antenna. E non riesce la volta da pulsa. Vede lei. Devo usare se l'ha compreso e devo usare tendito, non so se vuole sulla sala di persone, dai. Ehi, andrà bene, vanno, vai. Come vuoi, così. Si lea, là. E se no, mi si lea il pago, io. Ehi, vabbè, dai, saluto, vai. Noi teniamo tutto la prossimina, dai, mo.